get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte e benvenute alla 150esima trasmissione di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito in onda tutti i martedì su Radio Onda Rossa dalle 17 sugli 87 900 MHz di Radio Onda Rossa o collegandosi collegandosi sul sito internet alla pagina www.clrbp.it cliccando sulla radio sull'icona in diretta. Oggi qui in studio siamo io, Tania e Annalisa. Ciao. Vi ricordiamo che se volete parlare con noi potete telefonare allo 06 491750 oppure scriverci un'email al nostro indirizzo che è contatti@clrbp.it. Buonanotte. Che è contatti@clrb.it, sì. Oppure, come già sapete, potete mandarci un SMS al 338 416682. Sì, perché oggi ci dovete mandare un sacco di SMS. Perché già l'ha scritto. No, era un trollino. Un allarme, perché è cambiata la suoneria. Ci dovete mandare un sacco di SMS perché oggi si parla del vostro oroscopo. Quindi, insomma, mandateci messaggini perché c'è da partecipare. Innanzitutto, comunque, buon anno a tutte quante. Buon anno. Come avete passato? Bene? Vi siete baciate sotto il vischio? Avete già conosciuto l'anima gemella? Non ancora? Ma non vi preoccupate, perché adesso noi con il vostro oroscopo vi diremo tutto. E vi invitiamo quindi a chiamarci qui in trasmissione, via SMS dirci di che segno siete e quanto credono le lesbiche a Urano, Giove e Plutone. Diciamo, già l'hai detto il cellulare? Il numero? Sì, l'ho detto, 338 41 46 682. Avete visto che speaker? Come cominciamo l'anno? Allora, partiamo con la musica o leggiamo il primo segno? Come vuoi, Tania? Oggi sei tu ai fornelli, ai mixer. Sì. Partiamo con la musica. Vai. Per voi partiamo con Cesaria Evora. Procura outra vida, para que esse já está aqui. perché si cerca qui. Troppo bravo Peter, perché si cerca qui. Oh, ringraziamo Joe che subito ci ha fatto notare che siamo ancora un po' ubriache dalle feste, è vero Joe? Ma sono iniziata così male? Non è vero, siamo andate benissimo, stiamo andando bene. Allora ragazze, cominciamo da Ariete. Allora, vi diremo come va per l'amore, diciamo, per l'amore in coppia, per quello, come va l'amore per le single, vi diremo anche con chi butta bene, le avventure con chi farle, insomma, stateci a sentire. Cerco di avere l'aria professionale della vecchia strega. Allora, Ariete, se il vostro rapporto poggia su basi solide, le spallate di Saturno, in quadratura fino al 16 luglio, non provocheranno danni rilevanti. Questa dissonanza planetaria alla quale si affiancherà l'opposizione di Giove non vi deve preoccupare perché dal 16 luglio con Saturno in trigono il vostro legame dovrebbe conoscere una nuova lunga stagione di sicurezza e consolidamento. Se invece vivete un legame insoddisfacente, Giove opposto potrebbe farvi notare cose della partner e del rapporto che prima non avevate notato, volutamente o inconsapevolmente, alimentando la vostra insofferenza e l'incomunicabilità nella coppia. Insomma, la lasciate praticamente dopo che avete capito come è fatta. Eventuali bugie inoltre potrebbero essere scoperte e così, fra una verità rivelata e una sciabolata verbale, potreste ritrovarvi di nuovo single. Insomma, vi lascia. Per le single invece consigliamo di rendersi disponibili alla vita sociale. Non limitatevi alla sola palestra, al cinema, alla discoteca. Frequentate, qui ci metto il guizzo delle vecchie streghe del CLR, di più il centro femminista separatista e le nostre iniziative tipo l'ultima tombola. Sonori innamoramenti e nascita di love story destinate a durare. Certo, l'opposizione di Giove, che sarà attiva fino al 25 ottobre, potrebbe non rendervi almeno all'inizio le cose del tutto facili, ma nessuna difficoltà potrà impedirvi di far crescere a poco la vostra storia, specie dal 16 luglio, quando Saturno si porrà in trigono a Rete. Controllate comunque, se potete, gli eccessi di gelosia e di possessività, l'ansia e la fretta che nulla di utile porterebbero alla vostra neovita a due. Sì, qualche Ariete che si sta ribellando. Ciò che vi limita sono i passaggi planetari del 2005 che vi offrono la possibilità di affrancarvi dai ritmi concitati che molto spesso vi accompagnano, quindi basta con la fretta. Ciò che invece vi libera sono l'atteggiamento nuovo che sorprenderà chi vi circonda e che sarà l'attenzione e la sensibilità che dimostrerete e soprattutto il desiderio di prestare ascolto. Con chi butta bene, amore per sempre con... Taradadà, Cancro, chi è? Ancora tutti a ride su stasera, Tania. Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, avventure con Toro e Scorpione. Tra le personaggi famose citiamo la nostra bellissima Lucilla e le mandiamo un bacio. Toro, ecco, per le cornutelle, no scherzo, per le cornutelle. Poi vi diciamo pure i nostri segni, anzi indovinate perché si capisce dalla voce, no? Un po', uno di che segno è? Che tu non sei Ariete. Non sono vergine, cara. Tania, Toro. Toro, 21. Oh, hanno messo la mano su invii e continua. Non è possibile, ragazze, siete tutte qui con noi, è bellissimo tutto ciò. Amore in coppia. Saturno, improvvido sestile, da un lato vi renderà la metà forte, razionale e pragmatica del rapporto. Dall'altro potrebbe indurvi a pensare soprattutto a voi stesse e a minimizzare le eventuali richieste di attenzione della donna amata. Se da un lato Urano favorirà una cresciuta creatività, anche tra le lenzuola, al contempo potrebbe alimentare in voi una larvata inclinazione alla prepotenza. Accogliete costruttivamente nuove energie planetarie e respingete gli impulsi a comportarvi in modo poco proficuo per la vostra vita di coppia. Dal 16 luglio prevarrà un clima astrale diverso, ma non preoccupatevi. Se il vostro è un rapporto super solido, non avrete nulla da temere. E grazie, voi potete dire. Ma se non lo è, potreste attraversare una fase di crisi. Potreste aggiungere. Non ingigantire le cose, perché grazie al provvido sestile di Urano, che durerà per altri 5 anni, ogni problema troverà una soluzione. Speriamo. Che dici? Avvicinati al microfono, cara. Amore per le single. Ancora Urano in sestile, dai pesci rinnoverà la cerchia delle vostre conoscenze, favorendo la nascita di simpatie, affinità o dell'amore vero e proprio. Senza contare che Saturno, fino al 16 luglio, imprimerà il marchio della stabilità a un'eventuale storia d'amore. Dal 28 luglio, con Marte nel vostro segno e Saturno in quadratura, cui si aggiungerà al 26 ottobre Giove in opposizione, sarete forse insicure nei vostri mezzi, dei vostri mezzi. Sia che abbiate già una partner, sia che la state cercando, sarebbe bene convertire le forti pulsioni dall'aggressività made in Marte in attivismo lavorativo fisico, della serie non perdere tempo, appressa le donne. Ciò che vi limita, lasciate pure in soffitta l'istintiva tendenza che assale molte di voi e che vi fa bloccare e trattenere le persone e situazioni, nella paura che cedere significhi arretrare. Ciò che invece vi libera, gratitissima novità per il 2005, sarà il dinamismo a livello fisico e mentale. Risulterà divertente ed entusiasmante ad esperienze. Che c'è? No, perché c'è stato sicuramente un errore. E va bene, comunque insomma voi sicuramente sarete. Ma tanto nessuno capisce niente, ma se ci intridono Giove e Saturno, su per giù. Comunque avrete appunto sarete aperte ad esperienze totalmente nuove, anche rivoluzionarie, che faranno esultare anche che vi faranno esulare anche dal vostro solito seminario. No, è italiano, dai Tania, su, fatti forza. Eh sì, no, ma prima se vedi bene. Poi con chi butta bene. Butta bene, no, dico io con chi butta bene. Amore per sempre con Cancro. E tu ne sei sei. Vergine, Scorpione e Capricorno. Ma non invece sono le avventure le consigliamo con Ariete e Capricorno. Partono i capri saluti. Comunque buttatevi. Tanto può essere un'avventura o potrà essere amore per sempre, ma insomma. Per l'amore per sempre, oltre a me, anche se non adesso, perché sono momentaneamente occupata con i gabinetti, vi consiglio Luisa che ci manda un bacione che salutiamo, che è una dolce cancerina. Luisa, non avevo dubbi che tu fossi Cancro, guarda, perché sei troppo dolce e carina anche tu, come me. E poi dobbiamo fare pure. Aspetta. Buon anno a tutte voi, grazie pure a te Luisa. E c'è un altro messaggio. Chi è? Chi è? Promette? No, perché dice sei l'oroscopo è anche per etero. Cioè ci sono dei tuoi fans etero. Sì, sì. Là è Mauri. Là è Mauri? Sì, credo di sì. Sì, sì, diciamo che non vale strettamente. Vabbè sì, è per donne, veste meglio se è per lesbiche, però dovrebbe funzionare pure per le etero. E tantissimi auguri a Sara Velardi da parte di Buone Feste. Io non ho più il suo cellulare, ma so che vi ascolta. Non abbiamo però chi ti manda gli auguri. Sara, un bacione da tutte noi. Passiamo al Gemelli. Giove, simbolo celeste della parola, in utilissimo trigono fino al 25 ottobre, vi offre la possibilità sia di rafforzare, sia di rasserenare il vostro legame tramite il dialogo. Però, secondo me, ogni tanto, a parte il dialogo, ricordatevi di farvi una bella... Che dici? Se non la perdete uguale. Dal 16 luglio a rafforzare l'equilibrio di coppia sopraggiungerà Saturno. Se volete cambiare abitudini, conoscenze, giro di amiche e altro ancora, potete contare sull'appoggio di Nettuno. Urano, in quadratura, e Plutone in opposizione per tutto l'anno potrebbero dare il colpo definitivo ai rapporti già compromessi, mentre alle coppie più solide, imprevisti e difficoltà pratiche andranno affrontate facendo appello al dialogo aperto, profondo e pagato. Ma non solo dialogo, ragazzi. Grazie, non la perdete uguale, state a sentire a me più che alle stelle. Per le single invece tenete a mente Giove e Saturno, perché saranno loro a prendersi cura del vostro destino sentimentale del 2005. Ma come scegliere tra tante candidate? Con il sestile di Saturno dal 16 luglio in poi diventerete decisamente selettive. La quadratura di Urano potrebbe invece rendere alcuni di voi un po' troppo indipendenti. Per altre, sempre a causa di Urano in quadratura, ci sono in vista difficoltà di tipo pratico come impegni di lavoro che vi tengono lontane. E se vi tengono lontane sapete che le corna sono un po' dietro l'angolo. Che c'entra? Oh, con chi butta bene? Amore per sempre con Leone, Bilancia, Sagittario, Acquario. Una Leone sta anche qui. Chi è fra me, Tania? va bene. E Tania. Avventure invece con, se volete vedere, avere rapporti un po' più... Avventure con cancro. Altina invece con cancro. Sagittario. Personaggio famoso, Guinevere Turner, che è definita la Audrey Hepburn lesbiche, oltre ad essere stata la bellissima attrice e sceneggiatrice di Go Fish, forse ve la ricorderete, è tra le autrici e guest star della fortunata serie televisiva Elle World. Poi c'è anche la mitica Gianna Nannini, Melissa Etheridge e la nostra carissima Caterina. Un bacio anche a Caterina del Cellere, così vi diciamo anche i segni nostri, no? È carina sta cosa. Carino. Allora, adesso c'è il cancro e il leone, che sono i nostri segni. Che dici? Tu leggi il cancro e leggo il leone o sì, va. Vai prima tu? Sì. Cancro, che sarei io, e Luisa soprattutto. Grande pilota della vita di coppia sarà Saturno, l'astro dell'impegno e delle prove, spegnerà i fuochi piccoli ma accenderà ancora di più quelli grandi. Alcune di voi ufficializzeranno il rapporto oppure cambieranno abitudini, forse anche la casa, o avvieranno un'importante attività professionale assieme alla partner. A tutto ciò non sarà strano Urano nell'elettrizzante trigono, posizione propizia ad ogni cambiamento. Considerando però che Giove, astro del denaro, rimarrà in avara quadratura fino al 25 ottobre, oh mio Dio, fate in modo che i vostri progetti non vi costringano a impegni finanziari troppo gravosi. Il discorso cambia se vivete un rapporto con le batterie scariche. Sotto il peso di Saturno, e potrebbe infatti spegnersi del tutto. Del resto, è molto improbabile che restiate sole a lungo. Della serie morto una papessa, se ne trova subito un'altra. Per le single, con transito combinato e innamorante di Saturno e Urano, chi di voi pensasse a una vita amorosa fatta di avventure, sesso, rock and roll, Luisa? Forse dovrà ricredersi trovandosi coinvolto in un legame serissimo, autentico, senza riserve e per giunta ricambiato. Mamma mia che palle. Come? Un amore... Bello, bello, quelli eterni. Sì, vabbè, perché poi tu sei fidanzata. No, non sono fidanzata, Tania, lo sai che non si dicono queste cose. Certo, Saturno non dà mai niente per niente. Se a ciò aggiungiamo che Giove rimarrà in avara quadratura fino al 25 ottobre, è possibile che per la vostra bella storia d'amore dobbiate pagare un prezzo. Ma che si tratti di difficoltà pratica o di divergenze dovute al carattere o alla differenza di età, pagatelo volentieri, impegnatevi, assumetevi le vostre responsabilità, ne varrà quasi certamente la pena. Ciò che vi limita, ripromettetevi di debellare un modo di fare umorale e oscillante. Sarete aiutate dal passaggio di Saturno, dal quale imparerete a far fronte ai vostri sbalzi emotivi. Con chi butta bene, amore per sempre, con Ariete, Toro, Bilancia, Capricorno e Acquario. Mentre invece le avventure sono con Gemelli e Leone. Usate di più il dildo, questa è proprio una cosa a parte che viene detto. No, per il cancro, no, che ne so, oddio, che ho detto? No, niente, vabbè, allora, personaggio famoso, Monique Wittig, che è nata il 13 luglio del 35, è morta, pensate un po', 2 anni fa, ricordo il suo anniversario, proprio ieri, il 3 gennaio. Leisha Hailey, la Alice di Elle World, una delle pochissime attrici del serial TV dichiaratamente lesbica. E poi c'è Frida Kahlo, pittrice messicana, e a proposito di Alice di Elle World, è stata compagna a lungo, pensate di chi, della bellissima e bravissima, più che bellissima, forse bravissima, Katie Lang. E io quindi, a proposito di questo, vedi che collegamento che ti ho fatto, Tania, manderei un brano. Sì. Miss Chatline, Just Kiss, dedicata a tutte voi. Scriveteci, non ci abbandonate. Buon anno! Just a kiss, just a kiss. I have lived just for this. I can't explain why I've become this chalet. Just a smile, just a smile. Hold me captive, just a while. Why I've become this I'm just a sigh, just a sigh. Words, my life, just goodbye. I can't explain why I become Miss Chatelaine, Miss a smile, hold me captive just a while. I can't explain why I become Miss Chatelaine. Every time your eyes meet mine, clouds of sunshine. Ah, just a kiss, just a kiss. I haven't lived just once. E adesso il leone. Siccome io sono leone, ho aggiunto anche un'altra cosa, un oroscopo che ho preso da internazionale che mi è piaciuto molto. Quest'anno leone dovresti dedicarti a dettagli esasperanti e magnifici. Ti esorto a tuffarti nei misteri dell'intrigo mentre ti eserciti nell'arte di padroneggiare mille e una faccende che faranno avventurare i tuoi sogni. Forse ti conviene imparare a memoria questa citazione dal filosofo William James. Ho chiuso con i progetti grandiosi, le istituzioni importanti, i grandi successi. Preferisco quelle energie umane, sottili, invisibili e amorevoli, che collegano un individuo a un altro, scivolando tra le fessure del mondo, come tante piccole radici o capillari. Sei svegliata poetessa quest'anno, Tania, ve lo dico, Allora, il leone, sì, vabbè, non vi dico che è 23 luglio, 23 agosto. Amore, sì, ci vedi quanti anni hai, quando sei nata? Non abbiamo detto nessun altro segno. No, l'ho detto, sei tu che non l'hai detto. Ah, scusate. Io l'ho detto. Bisticciamo dopo, Annalisa. Sì. Giove fino al 25 ottobre, con la complicità di Plutone, risveglierà il vostro ottimismo e la vostra gioia di vivere. C'è solo un piccolo rischio. Potreste rendervi fin troppo socievoli. Se avete una partner gelosa, potrebbero essere guai. Quindi attenzione alle gambe che vi rompe. Dal 16 luglio Saturno entrerà nel vostro segno, seguito da Marte. Da quel momento il clima nel vostro rapporto potrebbe cambiare. Fate in modo che il feeling con la partner non venga inclinato da eccessi di orgoglio, che sappiamo bene non sono da poco, da competitività inutili, da capabili incomprensioni. Anche perché dal 26 ottobre con Giove potrebbero subentrare silenzi indispettiti. Amore per le single. Se è l'amore che cercate, lo troverete. Che culo. Giove fino al 25 ottobre suggerisce un'intensa vita mondana e dal 16 luglio Saturno introdurrà incontri significativi. Certo, Saturno non dà niente per niente e voi sarete tenuti a dare prova di grande disponibilità nei confronti della partner, dei suoi problemi, della sua voglia di coccole e attenzioni. Quindi ti ci vedo, pensateci bene. Gestire il rapporto non sarà semplicissimo, anche perché dal 28 luglio e poi dal 26 ottobre Marte e Giove alimenteranno la confusione. In ogni caso Saturno vi porterà una storia più appagante. Quindi non fate un gran problema. Cioè, fino al 25 ottobre non fate niente, insomma. Allora, ciò che vi limita, dovrete rinunciare anche se a malincuore alla vostra voglia di protagonismo. Noi, no, mai. Spettro che vi libera, nel 2005 ho salutato una vera e saggia autorevolezza, da vere regine dello zodiaco. Imparerete a gestire il potere. E non solo, riuscirete infatti a prendere la situazione in pugno, soprattutto nei confronti di voi stesse, esercitando una produttiva autodisciplina. E ricordate, vince chi sa vincere se stessa. Con chi butta bene? Amore per sempre con Gemelli, Leone, Sagittario, Pesci e Acquario. Quindi ce n'è quasi per tutte. Avventure con? Con me? Con Cancro, scusami, non ti guardavo. È Vergine. Sì, te lo ricordi che sono Cancro, sì. Sì. Va bene. Personaggi famosi sono appunto Tania del CLR e Rosina. Un bacione anche a Rosina. Ciao Rosina. Ci manchi. Tanto non ci starei manco ascoltando, stronzetta. Vergine, amore in coppia. E qua, Vergine, ah, sì, salutiamo anche Gio che stava aspettando... Sì, Vergine, ecco Gio. In trepidazione. Sì. Allora, Gio, stanno a sentire. I vostri pianeti depongono, a favore di un consolidamento del rapporto e di uno stretto affiatamento erotico. Oh oh! Quest'ultimo non trascurabile, visto che spesso è proprio l'intensità a far da traino al vostro rapporto. Potrete realizzare i progetti di coppia tanto desiderati, destinati magari a dare un corso più maturo alla relazione, attraverso la convivenza o il concepimento o il cambiamento di residenza, cioè una in una città e una in un'altra. Dal 28 luglio con il convivenza. Ah, scusa. Dal 28 luglio con il trigono di Marte, ancora di più dal 26 ottobre con il sestile di Giove, potrete fare una serie di viaggi romantico piccanti. Per le single, non mi ricordo, Gio, sei single o sei ancora fidanzata? Ce lo dirà. Aspirate di più per le single a una cospicua collezione di avventure o ad assumervi un impegno serio? Le stelle potrebbero far capitolare anche le più farfallone e libertine. Dal 28 luglio con il trigono semestrale di Marte e ancor di più dal 26 ottobre con Giove in sestile, sarete una svolta storica nei sentimenti. Vi accaserete, anche se forse all'inizio non tutto sarà facile da gestire. E quando mai? Quanto vi disorienterà, per esempio, il dover rivedere certe vostre abitudini da lupe solitarie? Ciò che vi limita, senza nulla togliere al raziocinio analitico che vi contraddistingue, bandite l'istintiva sensazione di disagio che avete nei confronti dell'imprevisto, verso ciò che sfugge alla vostra accorta pianificazione. Il fuori programma potrà essere l'idea che vi mancava. Usate di più le manette. Ma che dici? Questa è l'interpretazione di analisi, no. Ciò che vi libera, verrà alla luce il bisogno di aprirvi agli altri senza pudori fuori luogo, manifestando generosamente opinioni, sentimenti, calore, affetto. È una versione inedita di voi che avrà il prodigioso effetto di intensificare le vostre relazioni. Con chi butta bene, amore per sempre con... Mannaggia Gio, non c'è Cancro. Vabbè. Toro, Scorpione, Capricorno e Pesci, avventure con Leone e Bilancia. Personaggi famosi, se non mi sbaglio, Monica del CLR, però non vorrei sbagliarmi. E tra le altre, Carmen Consoli, ed ecco a voi, guardate il collegamento, Carmen Consoli, cosa ho scelto per voi? Venere, avete visto il collegamento? Geniale. Thank you. Ed eccoci ancora, adesso riprendiamo con la bilancia, 23 settembre 22 ottobre. Amore in coppia, con Giove fino al 25 ottobre sarete voi la metà gioiosa, ottimista e espansiva della coppia. Con Saturno in quadratura potrebbero emergere problemi che Plutone però promette di risolvere. Insoddisfatto e contente che siate della vostra coppia, il robusto sestile di Saturno dal 16 luglio dovrebbe rinsaldare progressivamente i vostri equilibri personali. In più potreste avere la sensazione di scorgere per la prima volta certi aspetti del suo carattere che vi aiuteranno a capirla più a fondo. E magari, chissà, a lasciarla? No, scherzo, comunque, bilancia quest'anno pare essere molto introspettiva. Invece comunque per le single sono troppi pianeti a vostro favore, perché la vita sentimentale non ne risenta in meglio. Giove fino al 25 ottobre darà una rinnovata vivacità alla vostra vita sociale. Conoscerete gente nuova, incontrerete le amiche di sempre e potrete lasciarvi andare a giocosi flirt. Nettuno segnala invece che dagli incontri trarrete spunti utilissimi per la vostra evoluzione interiore. Dal 16 luglio con Saturno, occhio agli eccessi di individualismo, sicuramente non troppo graditi alla partner. Ciò che vi limita? Spogliatevi degli scrupoli e della cavillosità che vi fanno sempre perdere tempo prezioso e lasciatevi alle spalle la tendenza a soppesare ogni cosa nei minimi particolari e che quindi vi rende un po' pallose. Ciò che vi libera, assaporerete la gioia di essere al centro dell'attenzione e sarete chiamate a svolgere un compito chiave nelle più diverse situazioni, pronte a farlo con euforia, con la capacità di galvanizzare le persone che avrete accanto. Con chi butta bene? Amore per sempre con Ariete, Gemelli, Cancro, Capricorno e Pesci. Avventure con Vergine e Scorpione. Anna, Scorpione, sì. 23 ottobre, 22 novembre, va bene Italia? Sì. Amore in coppia, libertà vo cercando, così risuonerà probabilmente il canto delle rivendicazioni sollecitate da Urano in Trigono. Avvertirete la necessità di ritagliarvi qualche spazio tutto per voi, di cambiare alcuni aspetti del vostro legame. Saturno potrebbe però aumentare esageratamente il vostro amor proprio in modo deleterio per il rapporto. State attenti a non calcare la mano. Dal 16 luglio Giove si porrà in sfidante quadratura, seguito dal 28 luglio da Marte in bellicosa opposizione. Ai ai ai. Tenete viva la passione, poiché potrebbe rivelarsi fondamentale per rinsaldare rapporti pericolanti. In questo vi aiuterà Giove, simbolo di sensualità e godimento della vita che dal 26 ottobre entrerà nel vostro segno. Finalmente cambierete posizione a letto. No, vabbè. Comunque dovete sempre aspettare il 26 ottobre, paura di quello dello Scorpione. Per le single, i transiti per un innamoramento solennissimo. I trans? No, i transiti. Potrebbero esserci proprio tutti. Urano, che simboleggia i sovvertimenti della vita, potrebbe farvi incontrare persone molto lontane dal vostro ideale, ma che potrebbero assorbirvi. Altro aspetto galeotto, Saturno, dal 16 luglio, potrebbe tradursi in abbattimento delle difese per una piena soddisfazione in amore. Ciò che vi limita? La vostra natura intensa, che oscilla spesso tra paradiso e inferno. Il 2005 vi accompagnerà a una svolta epocale, ad abbandonare questa istintiva predilezione per i toni cupi, le ombre, la drammaticità e a dire no a quei momenti di sconforto e pessimismo. E che sto Scorpione? Ciò che vi libera? La novità dell'anno sarà la capacità di arricchire il vostro formidabile istinto con una buona dose di senso pratico. Anziché perdere tempo alla ricerca di conferme, concentrerete la vostra attenzione su fini più concreti. Oh! Amore per sempre con Ariete, Toro, Vergine e Pesci. Avventure con Cancro e Capricorno. È uno Scorpione famoso. E che di Leng, che l'abbiamo passato prima, infatti. Sagittario, 23 novembre, 21 dicembre. Brava. Amore in coppia. Si annuncia molto positivo il sestile di Giove. Sarà bello per chi vi ama vedervi quasi sempre ottimiste e propositive, disposte ad approfondire le complicità intellettuali reciproche e ad alimentare un dialogo senza ombre, sereno. Con il rinforzo di Nettuno, l'amore farà palpitare un giorno sì e l'altro pure i vostri cuori. All'unisono, creando intorno a voi un'aura di romanticismo. Quando dal 16 luglio Saturno si porrà in trigono, dovreste constatare un ulteriore consolidamento della vostra intesa a due, purché non cediate alle eventuali spinte di un maternalismo eccessivo, che da guida del vostro rapporto potrebbe farvi diventare rigidi istitutrici, cioè un po' pallose. Plutone in transito ormai da anni nel vostro segno vi sta facendo vivere in modo pieno e gratificante la vostra femminità e la vostra virilità. Uh-huh. Amore per le single. Desiderate accasarvi? O volete vivere avventure senza impegno? In un caso o nell'altro potreste essere accontentate, affermano le stelle. Ma sottolineo anche che chi di voi è più incline alla farfallaggine è facile che perda la testa. Dal 16 luglio Saturno potrebbe consolidare le storie nate fino ad allora. E chi ancora ha una storia? Che dice? Cioè dico nel senso di fino al 26 ottobre che deve fare? No, non c'è scritto. No, perché sembra che tutte quante noi, poi vabbè, dopo posso fare una piccola considerazione su questi oroscopi. Alla fine, sì. Sì, alla fine. C'è che vi limita. Nel 2005 eviterete l'errore che spesso commettete, cioè quello di arrestare la vostra galoppata, finendo nell'incertezza di fronte alle tante, troppe possibilità, incapaci di scegliere la via da imboccare o peggio ancora mantenendo il piede in due staffe. C'è che vi libera. In genere vi lanciate nelle nuove avventure amorose con troppo entusiasmo. Nel 2005 assaporerete un amore fatto anche di sogni, tenerezze e sentimenti più delicati da scoprire. Per chi butta bene? Amore per sempre con Ariete, Gemelli, Leone e Acquario. Avventure con Gemelli, Scorpione e Capricorno. Personaggi famose? Joan Arma Trading. E mo cerco di passare questo brano. Non so come. Sono riuscita, dai. Drop the pilot. I'm not on target. My aim is straight. So you're in love. I say what of it? Things can change. There's always changes. I wanna try to rearrange. Ringraziamo ancora dei messaggi. Sì, tanti. No, io poi volevo ringraziare, che non avevo capito il messaggino che era arrivato prima, da Ilaria e Maurizio, che sono dei miei amici. Maurizia. Ilaria e Maurizio. Ah, vabbè. Vabbè. L'hai letto tu, io non avevo capito. Ah, tanti baci. Quindi comunque volevo mandare tanti baci a loro. Allora ragazze, siete sempre all'ascolto di Una Calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Volevamo entrare in trasmissione con la scopa, però stavamo troppo in anticipo. Abbiamo pensato di dare l'oroscopo, una cosa che nessuno dà, no? A inizio anno. Volevamo fare una trasmissione nuova. Certo, spero che l'apprezziate. Il primo oroscopo lesbico. Poi abbiamo qui in sede, in radio, pensate, ci ha raggiunto l'astrologa Rosa, che noi magari ci può fare qualche previsione un po' più specifica di chi è quest'anno in particolare, per le lesbiche, proprio ad hoc, se se la sente. E dopo cerchiamo di coinvolgerla. Di coinvolgerla. Intanto ci ha detto che Björk e che Tina Turner sono del Sagittario. Vedi, questa ci mancava. Allora, noi proseguiamo, ci mancano ancora tre segni, ragazzi, abbiamo fatta quasi. E siamo al Capricorno, un segno bellissimo. Che ne pensi, Tania? Non conosci nessuno? Ada, Tania, tantissimi auguri e baci, chissà se ci ascolta. Ada del CLR che ieri ha fatto gli anni. Sì, tanti auguri, Ada. Allora, amore in coppia, non vi annoierete certo nel corso di quest'anno, durante il quale ogni cosa sarà in costante divenire. Giove in quadratura e Saturno a Red in opposizione, fino al 16 luglio vi inviteranno a rivedere il vostro rapporto. Dovrete indagare sia sugli aspetti intimi del rapporto, sui possibili equivoci coltivati reciprocamente, sia sugli eventuali aspetti materiali. Una volta superato lo scoglio, a partire dal 16 luglio vi ritroverete a planare in un'atmosfera molto più facile e confortevole, sentendovi più libere e ispirate. Dal 28 luglio e dal 26 ottobre entrerete in una stagione semplicemente gloriosa per la vostra vita di coppia, rendendovi attraenti come non mai. Peccato che la fidanzata al contrario diventerà brutta. Ma sei stupidina. Per le single, con Saturno e Giove non potrete arroccarvi in quell'orgogliosa autosufficienza che spesso amate ostentare, dopo che Saturno dal 16 luglio e Giove dal 26 ottobre avranno sciolto i loro aspetti impegnativi, vi sentirete ancora più spensierate e disponibili alle piacevoli novità. Hai capito Ada? Ciò che vi limita, finita l'epoca in cui potevate trincerarvi dietro formule sbandierate con granitica ostentazione, adesso dovrete imparare a convivere con il relativo dubbio e sarà una liberazione. Vi limita, ora è ciò che vi libera. L'atteggiamento nuovo del 2005 sarà il desiderio di esporvi, uscendo dal guscio in cui avete a volte la tentazione di ritirarvi quando non vi sentite capite. Con chi butta bene, amore per sempre con Ariete, Toro, Cancro, Bilancia e Vergine. Avventure con Sagittario e Acquario. E a proposito dell'Acquario, Tania, siamo in trasmissione? No, prego. Pensavo stessi permettendo la musica. No. Acquario, 21 gennaio, 19 febbraio. Amore in coppia. Giovedì. Vabbè, giovedì tutto tace. Invece Giove, fino al 25 ottobre, vi offrirà la possibilità di promuovere un dialogo senza censure, finalizzato ad una più profonda conoscenza, ma fate in modo che le vostre chiacchierate non diventino un monologo. Quindi con la conseguenza che la vostra compagna scappi dalle braccia della prima che passa. L'esortazione a un dialogo diretto varrà ancora di più dal 26 ottobre, quando Giove si porrà in quadratura e tenterà di attenuare la confidenza con la persona che amate. Amore per le single. Le vostre frecce migliori da lanciare sul tirassegno dell'amore sono simpatia, socievolezza, capacità di cogliere al volo le occasioni. Attenzione all'opposizione di Saturno, che sempre dal 16 luglio potrebbe farvi avvertire un po' troppo il peso della solitudine, predisponendovi all'innamoramento e a dividere la vostra vita con troppa fretta accanto a una donna. Quindi aprite bene gli occhi e non fate sbagli. No. Ciò che vi limita. Il 2005 vi porterà ad abbandonare quell'atteggiamento.